rette che c'è stato di recente. Ecco, sulla questione più stretta dei servizi sociali, io vorrei ricordare che oggi la maggior parte di questi servizi sono gestiti direttamente dai privati. Pensiamo alle strutture residenziali e semiresidenziali per gli handicappati, pensiamo ai centri diurni, pensiamo alle case di riposo e a tutto il resto. Queste associazioni, queste cooperative, queste opere pie private che gestiscono questi servizi sono finanziate dall'ente pubblico, il comune paga delle rette altissime, arrivano fino a 5 milioni al mese per un inserimento e i livelli di qualità di questi servizi gestiti dai privati ce li hanno mostrati molto chiaramente i blitz dei carabinieri nelle case di riposo. Le ultime cose sul famoso potenziamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Intanto il piano sanitario bolognese prevede che questo potenziamento avrebbe già dovuto essere stato attuato. Noi lo stiamo ancora aspettando. Io lavoro adesso come assistente sociale in un servizio per l'handicap e gestisco anch'io, collaboro con assistenti domiciliari. La maggior parte, anzi tutti questi assistenti domiciliari sono dipendenti di cooperative private. Le loro condizioni di lavoro sono allucinanti, fanno gli orari spezzati, per cui gli viene pagata soltanto l'ora di intervento nel momento in cui aprono la porta della persona fino al momento in cui escono, e se fanno 2 ore in via San Donato e le altre 2 ore le fanno, che ne so, in via Emilia, il trasporto non gli viene pagato. Per cui loro per avere 6 ore al giorno devono stare impegnati 10 e anche più ore al giorno. I salari sono bassi, bassissimi, l'ente pubblico per un'ora di intervento educativo paga anche 25 mila lire all'ora, l'operatore ne prende 7, 8, 9 mila lire. Questi operatori con cui l'ente pubblico queste cooperative con cui l'ente pubblico si convenziona mantengono i propri, fanno dei contratti libero professionali a questi operatori e non gli pagano i contributi. Ovviamente, ancora una volta, nessuna garanzia sul piano della formazione e così. L'altra cosa che vorrei dire è che il piano Vitali, sempre sulla questione dell'assistenza domiciliare, è che il piano Vitali prevede un potenziamento di 180, cioè anzi da 80 a 180 assistenti domiciliari per una popolazione di ultra 65 anni che nel 92 è prevista pari a circa 95.000 persone. Io mi domando come faranno questi 180 assistenti domiciliari a rispondere in maniera adeguata al bisogno delle persone. Ultima cosa è che accanto a questo, secondo me, appunto falso potenziamento, è previsto anche il pagamento del servizio da parte del cittadino, calcolato, dice il piano, in base al reddito, ma anche in base alle ore di servizio prestate. Allora, l'assistenza domiciliare è un servizio che viene fatto a casa dell'anziano e che dovrebbe servire a garantirne il mantenimento nel proprio ambiente di vita. A me questa storia del pagamento del servizio di assistenza domiciliare mi fa venire il dubbio che l'anziano ricco, che necessita di molte ore di assistenza domiciliare, potrà rimanere nel proprio ambiente di vita perché se le potrà pagare. L'anziano povero, che magari ha la pensione minima, che non si potrà pagare tutte le ore che gli serviranno di assistenza domiciliare o anche una parte, sarà costretto a finire nelle case di riposo, ospizi, perché anche casa di riposo a me mi sembra veramente un eufemismo. L'ultimissima cosa, io non capisco, ancora una volta sulla questione del pagamento, perché noi dobbiamo pagare le tasse se poi ci dobbiamo pagare tutti i servizi di cui usufruiamo. Allora, adesso c'è Michele Bonfort. Ma io mi occuperò solo di una cosa, anche perché ho avuto l'onore e forse l'onere di essere citata sia dall'assessore sia da Boghetta. cioè della questione dell'autocostruzione e quindi marginalmente la questione dell'autocostruzione, ma della questione del diritto alla casa a Bologna. Uno degli aspetti più significativi di questa proposta è appunto quella della costituzione di una società per azioni che amministri il patrimonio pubblico, che liberi risorse, che ne acquisisca e che possa indirizzare risorse rispetto a una riapertura del mercato dell'affitto. La proposta di per sé è assolutamente ancora non chiara. Non si capisce bene come possa funzionare una cosa del genere. Diciamo che fino adesso l'unica cosa che si capisce è che i bottegai che fino adesso hanno pagato nulla, e non si capisce perché venga ammesso. Ad esempio, se ci fosse responsabilità bisognerebbe chiedere tutti i soldi che hanno praticamente rubato all'erario, chiedergli all'assessore che gli hanno permesso per anni e anni, però purtroppo non c'è la responsabilità degli assessori. Comunque questa è una cosa sacrosanta, è da anni che si dice, e non si capisce per quale motivo, se non c'è un motivo preciso, alcuni esercizi commerciali che non abbiano caratteristiche specifiche, perché ci possono essere esercizi commerciali come quelli di difesa, una serie di artigianato, eccetera, eccetera, che può avere un motivo, ma la stragrande maggioranza dei casi, valigeria, eccetera, eccetera, non si capisce. Adesso dice, vabbè, l'abbiamo capito anche noi, faremo pagare, benissimo, d'accordissimo. Quindi l'unica cosa chiara è questa. Quella che non è chiaro è come mai dopo 7 anni, da quando per primo si parlò di privatizzazione, fu DP. DP fu la prima a fare una proposta di privatizzazione in questa città e fu quella di creare una finanziaria a casa, e fu DP a avanzarla per prima, e da qui che è nata la vicenda dell'autocostruzione. Quindi non è che qui si sta discutendo privatizzazione, non privatizzazione, eccetera, eccetera. Se ne potrebbe discutere in termini astratti, ma dovremmo discutere dalla configurazione dello Stato italiano, perché è capitalista, perché non è socialista, perché qui stiamo discutendo di quali sono le finalità, come si possono raggiungere e quali sono gli strumenti più opportuni, idonei nell'attuale situazione per raggiungere certe finalità. Allora io posso certamente capire che lo strumento, tant'è che io stesso sono fautore di una finanziaria casa a Bologna, posso capire che ci sono delle specificità che attraverso i quali si può arrivare a obiettivi con strumenti diversi, ma il motivo è uno, il motivo è che di fronte a una politica nei confronti degli enti locali di totale restrizione dell'agibilità sia democratica che finanziaria ormai degli enti locali, è evidente che ci sono due alternative possibili: o adeguarsi, e mi pare questa l'accettazione totale, adeguarsi, cioè vabbè, tu fai così, mi adeguo, perché non si può vivere in maniera diversa, l'amministrazione comunale si adegua ai dettami del governo centrale, oppure vedere di mobilitare le risorse locali, sia in termini finanziari, sia in termini di volontà, per modificare il rapporto di forza con il governo centrale. In molti casi questo successo non è una novità degli anni 90, è successo spesso nella storia sia bolognese che anche nella storia italiana. Il problema è che l'amministrazione comunale ha deciso in questo caso di adeguarsi con una novità che è questa, cioè l'unico modo che le attuali amministrazioni comunali, gli enti locali in Italia hanno di reperire le risorse è il rapporto lobbistico con l'amministrazione centrale, non esistendo più nessun criterio certo, nessuna pianificazione, programmazione, robe ventilate decenni fa, tutto avviene attraverso il lobbismo interno ai partiti, per cui l'amministrazione di Ravenna, quando non c'era il Partito Repubblicano dentro la Giunta, non vedeva una lira, adesso che c'è il Partito Repubblicano e il Partito Socialista vedranno i soldi, probabilmente questo avviene in molte altre enti locali, di questo se ne fa necessità. Dice, beh, è impossibile ottenere dei soldi da parte del governo centrale, visto che meccanismi certi non ci sono, il vero meccanismo di intervento è l'intervento straordinario, dappertutto, dalla casa ai piani per le città, eccetera, eccetera. Questi piani straordinari si ottengono solo se si è dalla parte giusta. Bologna si vuol mettere dalla parte giusta, evidentemente, facendo una serie di proposte che sono all'avanguardia rispetto alla privatizzazione. Quindi il problema non è la privatizzazione. Lo strumento di finanziare a casa può essere utile, e noi siamo i primi a proporlo, ma non è la stessa cosa di quello di cui si sta discutendo, per mobilitare le risorse dei senza casa della città per un progetto politico che si contrappone a quello che il governo ti vuole imporre. Parliamo dell'autocostruzione? Appena 7 anni fa, qui sbagliava Boghetta, non è 2 anni fa, 7 anni fa il comune di Bologna, dopo incredibili traversie, fece questo primo tentativo di privatizzazione, cioè chiese ai cittadini bolognesi di contribuire a garantirgli il diritto alla casa, cosa che era mai successa. Fu sotto la proposta di DP e poi delle cooperative che si costituirono che questo fu fatto. Beh, più di 700 senza casa bolognesi erano disponibili a dare dei soldi al comune pur di permettere il recupero a uso popolare del patrimonio degradato, sia privato che poteva essere espropriato, sia di proprietà pubblico delle opere pie come quello che c'è tuttora. O non è stato fatto nulla, è stato fatto una pura e semplice operazione d'immagine su 4 cantieri a distanza di 7 anni da un'operazione che era di immagine. C'è stato un metodico e scientifico lavoro di boicottaggio di questo tipo di proposta, tanto ad arrivare a un assessore al patrimonio che ha fatto di tutto per evitare di applicare una delibera del Consiglio Comunale, che ancora una volta individuava un altro elemento simbolico. Allora, io dirigo una di queste cooperative e certamente sono perché queste cose vanno in porto, però va detto, l'assessore al patrimonio che adesso non è più al patrimonio, l'ex assessore al patrimonio Guerra, praticamente ha attuato scientificamente il boicottaggio di l'unica proposta sul terreno della casa che era sì di privatizzazione, ma che andava a perseguire fini sociali, mobilitava il lavoro, il risparmio, le energie dei senza casa per perseguire un fine che era di utilità sociale. Questa è la privatizzazione che io vorrei. A questi fini si debbono mobilitare le risorse, le attività, le intelligenze della comunità locale, dei senza casa, della popolazione, contro un progetto che sta avanzando e che Cervellati delineava anche in termini urbanistici. Ma è stato fatto questo? E questa la finanziaria casa di cui si sta parlando adesso nel progetto Vitale? Non mi pare, non c'è neanche un accenno, ma neanche una virgola a ciò. Persino lo studio che fu fatto fare sulla finanziaria casa a degli insigni professori universitari che dicevano come perfettamente fattibile il progetto anche in termini finanziari è stato messo di lato 5 anni fa e non è stato più toccato, perché il problema è che lì c'era poco da mangiare da parte dei privati, era sì privatizzazione ma senza polpa per le lobby, era privatizzazione perché era l'unico modo per perseguire nelle condizioni purtroppo disagiate, non sto ad approfondire sulla questione del diritto alla casa, una politica attiva da parte dell'ente locale. Allora noi rivendichiamo la privatizzazione in questo caso. Privatizzare vuol dire mobilitare le risorse dei senza casa, mobilitare le risorse anche delle imprese per perseguire un fine sociale. Beh, questo non viene fatto, non si può dire vabbè, ci vuole del tempo, ci vogliono degli anni, sono cose complicate, eccetera, eccetera. L'assessore alla casa di cui parlavo prima non è più assessore alla casa, anche perché abbiamo dimostrato come lui è stato in grado in giro di 2 mesi di assegnare in maniera illegale case pubbliche senza perdere del tempo, mentre nel caso dell'autocostruzione, nel caso dell'unica proposta di privatizzazione in termini sociali che c'è stata a Bologna, si è utilizzato la lungaggine, l'allungamento dei tempi per boicottare sostanzialmente una cosa che se non si fa in giro di 7 anni vuol dire che proprio non si vuol fare, perché sennò quanto tempo ci vuole per fare una cosa? Beh, l'assessore alla casa invece per assegnare 4-5 case a cantanti, amici, eccetera, eccetera, che magari pagavano anche delle bustarelle, ci ha messo 3 mesi, in quel caso è stato veloce, no? Io chiudo dicendo che cosa? Chiudo dicendo che secondo me il confronto sui vari temi non dovrebbe essere ideologico. A me non interessa che l'assessore Vitali pensa che la giusta via sia ridurre i lavoratori pubblici come i lavoratori delle piccole imprese. Io come DP voglio fare l'esatto contrario. Ho promosso un referendum per garantire i diritti sindacali dei lavoratori delle piccole imprese. Se il Partito Comunista vuol promuovere un referendum per far diventare lavoratori pubblici come quelli delle piccole imprese, lo dica chiaramente, l'assessore Vitali l'ha quasi detto, però questo è ovviamente un allarme, un invito alla mobilitazione da parte dei lavoratori pubblici del Comune. In questo caso, quello che mi interessa non è questa polemica ideologica. In questo caso, vorrei capire quali sono le finalità di ogni singolo intervento. A che cosa serve privatizzare, ad esempio, una serie di cose? Qual è il fine? Cosa ci sta dietro? Perché gestito dal privato è meglio? Nel caso della finanziaria casa lo so perché, in altri casi mi rimane oscuro. Non è ideologicamente detto che il privato sia meglio del pubblico. Il problema è capire perché. Se è meglio perché magari il privato fa il lavoro nero, non paga le tasse, quindi magari al limite può fare un prezzo più basso, ma ditelo. Ecco perché è meglio fare privato, magari far fare la pulizia alla gamba, è meglio di assumere dei dipendenti pubblici che fanno le pulizie, perché sappiamo bene che rapporti interni ha la gamba lì con i lavoratori, senza nessun diritto sindacale, senza pagare una serie di cose, col lavoro nero, eccetera, eccetera. Allora forse si risparmia, ma è questo? È per questo che il privato in alcuni casi è meglio del pubblico? Se è questo, è meglio dirlo. Allora uno dice: io voglio il privato per questo motivo, voglio il privato per quest'altro motivo, voglio il pubblico per quest'altro motivo. E poi mi convince. Se fare le pulizie è meglio fatto con il privato, vorrei capire perché. Io non credo che sia così. E io inviterei tutti a intervenire nel merito, nel senso che se i lavoratori dell'ospedale, che hanno subito la prima esperienza di privatizzazione di un servizio, possono, come io so, dimostrare l'esatto contrario, che si spende di più e il servizio è peggiore, è evidente che c'è qualcos'altro dietro. C'è qualcos'altro che è quello, probabilmente, brutalmente, di consegnare in mano a delle lobby interi pezzi del comune. Dopodiché qualcuno dirà che non è vero, qualcuno dirà che non è vero, però mi pare che l'unica finalità inconfessata alla fine sia questa. Sassi. Allora, io volevo accogliere l'invito di Michele a tenermi molto agli argomenti terra a terra e partire dalla mia esperienza di lavoro. Innanzitutto volevo dire all'assessore Vitali che io sono 10 anni che lavoro in comune e il fatto che lui abbia dipinto noi altri come dei lavativi, no? Proprio sinceramente mi ha fatto arrabbiare, in quanto io, fino a prova contraria, ho i calli nelle mani e le artriti nelle ossa, perché per 10 anni mi sono adattato a fare dei lavori brutti, non uso altri aggettivi, come fare il becchino, fare l'attacchino in mezzo al traffico, attaccare i manifesti, proprio perché mi interessava. Sono cresciuto così, mio padre era un dipendente comunale anche lui e il suo lavoro l'ha fatto bene, mi sembra, e mi ha educato che una risorsa principale, la ricchezza vera, era avere del tempo libero. Per cui mi sono adattato anche a fare dei lavori brutti, dei lavori assolutamente disagiati, per potermi liberare del tempo. Io ho cominciato a lavorare appunto a 20 anni nel 1980 in comune, sono riuscito a farmi il diploma, sono riuscito anche a laurearmi quest'anno. Mio fratello fa praticamente il mio stesso lavoro per una ditta privata, fa il magazziniere e una ditta di affissioni. Sono bravissimi ragazzi i suoi titolari, no? Però lui non solo avrebbe dei problemi, diciamo così, a laurearsi, lui avrebbe dei problemi semplicemente a fare un corso professionale, e non perché loro sono degli agostini, ma semplicemente per come è organizzato il lavoro sotto un privato. Ma volevo ripartire da capo, cioè di parlare della mia esperienza di lavoro in Certosa. Quando siamo andati a lavorare quelli ragazzi del mio concorso, la situazione era penosa. Da diversi anni non si facevano concorsi, c'era una situazione di lavoro estremamente degradata, un tasso di alcolismo altissimo. Siamo entrati in una ventina, una trentina subito, e essendo ragazzi giovani che entravano un po' tutti con lo stesso spirito e che affrontavano il lavoro un po' tutti con lo stesso spirito, abbiamo cercato di razionalizzare un po' il lavoro, di introdurre una certa parte di meccanizzazione. Siamo riusciti in un certo modo a risolvere questo problema di degrado del lavoro, a riqualificare il lavoro e a riqualificare anche il servizio, perché dovete pensare che normalmente i cimiteri si fanno delle battute un po' sopra perché si ha paura di morire, però i cimiteri sono anche il luogo dove un gran numero di anziani lo utilizzano come luogo di ritrovo, e sono centinaia e centinaia. Questo lo dimostra anche la solidarietà, per esempio, che hanno dimostrato tutti questo tipo di utenti con i lavoratori dei cimiteri in lotta, è una cosa dell'anno scorso, è una cosa di quest'anno, e così. Dopo, nel tempo, è cominciata ad avanzare questa politica di rallentamento e di blocco del turnover. E qui è avanzato parallelamente un degrado del servizio, allo stato attuale, uno stato quasi catatonico del servizio, tutta una serie di funzioni non si riescono più a svolgere perché non c'è personale, il lavoro è di nuovo degradato ai massimi livelli, c'è una privatizzazione strisciante, cioè per esempio le pulizie vengono già fatte dall'AMIU, non vengono più fatte dagli operatori del comune, e oltretutto l'assessore al personale, Guerra, quello che prima aveva l'assessorato al patrimonio, ha detto che addirittura vuole mandare degli ispettori, appunto perché ragiona con la stessa logica di Vitali, che se il servizio va male, questo è colpa dei lavoratori che non producono, no? Secondo me invece molto è colpa degli amministratori che non sanno amministrare, che preferiscono scaricarsi le responsabilità, scaricarle sulla, appunto sui lavoratori, lavarsene le mani privatizzando tutto. Comunque, nel periodo in cui, diciamo nel primo periodo in cui mi trovavo a lavorare in Certosa, era stata istituita già da qualche anno l'Agenzia di Onoranze Funebri. Questa aveva una, ha avuto e ha tuttora una funzione fondamentale. Voi pensate che, per esempio, dove per esempio nel Meridione c'è un certo tipo di controllo mafioso, la mafia del carro estinto, non so se l'avete mai visto sui giornali, specula enormemente proprio su tutto questo tipo di servizi che sono servizi, ai noi, indispensabili. Là, qui chiaramente sul nostro territorio non si arriva a livelli di economia criminale, di speculazione criminale su questi settori, però c'è comunque la speculazione bottegaia, la speculazione delle agenzie di pompe funebri. Bene, l'agenzia comunale ha avuto una funzione enorme, importantissima, di calmieraggio e di controllo su tutti questi settori. Oggi il comune vuole privatizzare anche questi settori, guarda caso, in nome del controllo. Una strana logica questa, no? Si deregolarizza, si lascia mano libera a questi che sono sempre stati comunque speculatori, va bene, perché invece una funzione di controllo che prima veniva gestita in un certo modo e che era anche redditizia, va bene, non viene più, non si vuole più politicamente intervenire in questo modo. È una scelta politica, è una scelta ideologica che va contro gli interessi economici del comune e il controllo di fatto sull'economia, su una serie di servizi che appunto sono indispensabili. Da lì mi sono trovato 3 anni fa a ottenere un trasferimento in qualche modo e adesso lavoro al servizio affissioni. Mi sono trovato in un reparto completamente diverso, diciamo così, rispetto a quello che alla situazione in cui mi ero trovato all'inizio, quando sono andato a lavorare in Certosa, nel senso che lì c'era un blocco di fatto del turnover che durava da oltre 10 anni. A tutt'oggi mi sembra siano circa 14 anni che non viene fatto un concorso nelle pubbliche affissioni. Questo ha comportato il fatto che c'è una crescente speculazione dei privati sul servizio pubblico. Una speculazione che avviene girando, per esempio, delle affissioni pubblicitarie al servizio pubblico e attraverso questo un privato prende, devo precisare all'inizio, un privato prende circa il doppio di quello che prende il servizio pubblico per delle affissioni, no? Le fa fare al servizio affissioni, ci sono le affissioni prenotate dai privati, va bene, le liste di attesa sono lunghissime per ottenere delle affissioni, e allora cosa succede? Perché queste liste sono tutte prenotate dai privati che ci speculano sopra, che rivendono un servizio pubblico di fatto al doppio del prezzo. Non si pensa di intervenire in questo settore controllando e limitando questo tipo di speculazione. No, gli regaliamo tutto il servizio e non a caso il nostro servizio è sempre citato come primo servizio da privatizzare, il servizio affissioni. Tanto la speculazione c'è già, è un dato di fatto, noi non interveniamo contro questo, semplicemente glielo regaliamo in toto. Un'altra cosa, voi pensate, io attacco 200 manifesti al giorno, che vuol dire che grosso modo mi dovrei guadagnare in un giorno lo stipendio di 2 mesi. Più o meno per quello che sono i costi delle affissioni. Questo non avviene perché attraverso una serie di mafie, di clientele, vengono date numerosissime affissioni gratuite, il che vuol dire non solo quelle che sono di diritto affissioni gratuite, bandi di concorso e cose analoghe, no? Servizi dei quartieri e così via, ma che attraverso il patrocinio, e c'è chi ci specula moltissimo per fare delle iniziative a scopo di lucro, non farle figurare pubblicamente come tali, ottenere dei patrocini per cui ha l'affissione o a prezzo a tariffa ridotta oppure assolutamente gratuita, e si arriva a dei paradossi per cui, per esempio, mi è capitato con un campionato di football di attaccare affissione gratuita dei manifesti che erano 70%, no? Dove dentro la pubblicizzazione della partita di baseball era grande così, era proprio un quadratino piccolo, tutto intorno erano sponsor, cioè spazi pubblicitari venduti. Allora lì c'è chi ha fatto la cresta su una affissione gratuita, va bene, vendendo degli spazi pubblicitari. Come si vuole rispondere a questo? In nome del controllo si vende tutto ai privati, si dà tutto ai privati. Certamente un privato non avrà più bisogno di fare questo tipo di manovre. Però, per esempio, ci saranno dei problemi per quando invece ci sono realmente delle iniziative di base, delle iniziative non a fini di lucro, quando dovranno quelli pubblicizzare la loro cosa. Allora magari il nostro reparto, una parte del nostro reparto, verrà utilizzato per perseguire questi, per multarli uno dietro l'altro, bene? Mentre adesso si lasciano correre della gente che pratica l'affissione abusiva e specula, lucra sulla affissione abusiva di massa. Sì, volevo, allora finisco con gli esempi e passo a un altro discorso, ne avrò bisogno di un po' più di un minuto. Abbiamo raccolto come lavoratori 500 firme, qui mi riallaccio al discorso che faceva Boghetta sui sindacati alla Polacca, appunto. Abbiamo raccolto nel giro di una settimana, senza nessun tipo di organizzazione, senza nessun tipo di distacco sindacale, così, 500 firme di lavoratori per richiedere alle organizzazioni sindacali un'assemblea generale dei lavoratori che in qualche modo, per essere informati e per discutere e per poter anche intervenire su questo piano di privatizzazione. Strano caso, apro una parentesi, Vitali dice che ci sono delle risorse in termini di competenza professionale dei lavoratori, no? Su queste che vengono congelate. Strano caso, non ha mica pensato di andare in qualche modo a fare un lavoro di inchiesta fra i lavoratori per organizzare questa privatizzazione. No, l'hanno deciso tutto loro dall'alto. Va bene fare le manfrine ai lavoratori, poi però al dato di fatto sono solo da impacchettare anche loro e vendere. Ma torniamo ai sindacati. Queste 500 firme sono state consegnate e abbiamo chiesto questa assemblea generale. Strano caso, le confederazioni, che in genere non fanno mai nulla con la storia, che non riescono mai a essere unite, a questo giro hanno deciso tutti di cavalcare la tigre e le tigri si cavalcano da soli. Per cui la CGIL ha fatto 7 assembleucce solo come CGIL per inquadrare i suoi iscritti, va bene, e mandare avanti e fare la propaganda per la privatizzazione. La CISL fa dei proclami che sembrano proprio peronisti, no? Proprio velleitari completamente, dice noi faremo, brigheremo, siamo contro la privatizzazione, all'atto pratico vengono sempre presi per un orecchio e firmano poi anche loro. La UIL, anche loro fanno per conto loro le loro storielline, vanno con i cartellini in consiglio comunale, però quando c'è da prendere delle iniziative, da fare delle assemblee, non fanno nulla. A questo punto penso che i lavoratori del comune abbiano solo la scelta unica di prendersi sulle loro spalle completamente l'intervento, di auto-organizzarsi. Noi stiamo facendo una proposta anche in termini sindacali di costruire una rappresentanza sindacale di base in comune, proprio per riuscire con un discorso per la ricostruzione di un sindacato di classe all'interno del comune, per riuscire a capovolgere questo discorso, per riuscire a dare un'organizzazione indipendente dei lavoratori che si svincoli da questo tipo di sindacati. E giustamente Cervellati richiamava la gestione dei podestà. Secondo me questi sindacati non ricordano tanto i sindacati polacchi quanto le corporazioni fasciste, cioè proprio delle strutture che servono unicamente per inquadrare i lavoratori e gestire la forza lavoro in funzione poi del padronato, in questo caso del comune. Un'ultima cosa che volevo accennare per quanto riguarda il discorso della cosiddetta sinistra diffusa. Purtroppo delle volte mi devo vergognare di aver fatto il 77, perché davvero metà me li trovo pentiti e l'altra metà me li trovo venduti. Qui più che di sinistra diffusa bisognerebbe parlare di sinistra venduta, di chi per un piatto di lenticchie poco più o poco meno si è dimenticato i sogni della gioventù e, come ha scritto qualcuno, dall'assalto al cielo corre alla gara d'appalto. Totire. No, c'è stato un doppio iscrizione a parlare, per cui sono presi sia io che Boghetta, quindi non ho fatto nient'altro che mettere più uno o l'altro alternati. Ma io credo che questa vicenda della privatizzazione proposta dal Comune di Bologna sia un elemento che mi fa pensare a un fatto di crisi della sinistra, e che ritengo non sia un fatto, o comunque un fatto di arretramento. Non ritengo neanche che si tratti di un fatto isolato, perché adesso poi dirò alcune brevi cose sul quadro regionale e sul quadro proprio della regione Emilia-Romagna, non solo della regionale nel senso del territorio. E mi sembra anche che faccia il paio con una sorta di svolta, che quella consumata, io spero non definitivamente, solo qualche giorno fa al congresso della Lega Ambiente di Siena, e cioè questa svolta con la quale Lega Ambiente, mettendo da parte ogni forma di antagonismo considerata retaggio del passato, va all'accordo, va all'incontro con alcuni settori dell'impresa privata, pensando che in questa maniera, quindi saltando totalmente sulla testa dei lavoratori, in questa maniera potrebbe riuscire a trovare un qualche stratagemma per salvare la terra e salvare il pianeta. Io credo che il fatto di Bologna non sia sicuramente isolato, e voglio fare alcuni esempi. In regione la proposta della privatizzazione è un fatto per alcuni enti regionali compiuto o comunque estremamente avanzato. Per esempio l'Arcel, che è l'azienda regionale del cervello elettronico, è stata già privatizzata. È stata privatizzata passando da una gestione che era pubblica e soltanto regionale a una gestione che vede la partecipazione già oggi dell'IRI, della Lega delle Cooperative, della regione stessa, ma che prelude all'entrata nell'immediato futuro anche della Confindustria e del gruppo De Benedetti che ha fatto richiesta. Ora, quali sono, io credo che anche se poco noti questi episodi, le conseguenze siano abbastanza chiare, nel senso che all'Arcel, bene, tutti i lavoratori regionali non hanno optato per la nuova struttura, cioè tutti i lavoratori regionali resteranno nella vecchia struttura, e quindi ci sarà il problema per la nuova, quella mista, di assumere tutti ex novo, mentre per gli altri, per i vecchi dipendenti, ci sarà il problema abbastanza problematico della ricollocazione all'interno dei ruoli regionali. C'è un problema di costi, che anche questo è estremamente chiaro, nel senso che da quello che hanno sostenuto i lavoratori, poco sostenuti in questo dal sindacato, i costi del servizio saranno una volta e mezzo i costi precedenti. C'è però un altro gravissimo problema al quale accennava già Boghetta nella sua introduzione, e cioè il problema della trasparenza. Vale a dire, un'azienda per il cervello elettronico che si occupa dei temi dell'informatica, nel momento in cui, e quindi dell'organizzazione delle informazioni, nel momento in cui viene lottizzata tra privati, diventa un ostacolo in più all'accesso ai dati e alla socializzazione di questi dati, perché già oggi si fanno degli sforzi enormi, faccio il caso della richiesta che molte persone fanno di accesso ai dati sulle aziende inquinanti o sulle aziende a rischio, già oggi che ci si trova di fronte a alcuni enti pubblici le difficoltà per mettere le mani su questi dati sono enormi, figuriamoci poi cosa succederebbe quando all'interno di queste società che organizzano i dati diventano protagonisti quegli stessi gruppi industriali che sono legati a questo tipo di imprese sulle quali si va a cercare dei dati. Ecco, però direi che la tendenza generale ormai da anni è quella sempre dell'incremento della quota privata all'interno di tutti gli enti regionali. E qui posso citare l'ERVET, posso citare l'ASTER, posso citare lo SVEX, che è una struttura specializzata che si occupa di incrementare l'export. Vitali diceva 1 miliardo per il progetto Immigrati. Beh, io dico francamente che cosa ben misera, se come io posso dire per averlo appurato, sia pure per via traverse, per esempio soltanto un viaggio della regione Emilia-Romagna in California 2 anni fa è costato 1.700 milioni. 1.700 milioni spesi da un ente pubblico per un'operazione pubblicitaria in California finalizzata a vendere prosciutti, macchine Ferrari e parmigiano. Cioè, questi sono fatti concreti, nel senso che poi avrete capito questo avrete visto questo grosso feeling che c'è tra la regione Emilia-Romagna e la California, che è un feeling molto chiaro da spiegare, cioè la California è lo Stato tra gli Stati Uniti che ha una politica meno protezionista e quindi è quello nel quale si deve riuscire a sfondare di più con i prosciutti, con le Ferrari e col parmigiano reggiano. Quello che personalmente mi preoccupa, anzi mi terrorizza come ecologista, è il fatto che il Comune stia pensando ad una forma di privatizzazione nella gestione dei rifiuti. Questo io credo che sia un fatto apocalittico perché ci sono troppi esempi nei quali la gestione privata dei rifiuti, dal rusco a rifiuti tossiconocivi, la gestione privata è stata fonte di gestione criminale. Cioè, voglio dire, Assessore Vitali, non è con la privatizzazione che, per esempio, una forma di privatizzazione già avanzata, la nuova Geovis, che è una società della provincia di Bologna che raccoglie il rusco. Beh, noi abbiamo alle spalle un'esperienza che doveva andare in quella direzione, che è Agripolis di Ozzano. Esperienza pubblica che ha totalmente fallito, ma non per... alla luce e in virtù di una particolare composizione del Consiglio di Amministrazione. No, ha fallito per inefficienza, per incompetenza, nel senso che molto banalmente si pretendeva di non fare la raccolta differenziata del rusco e poi si pretendeva, nonostante questo, di produrre del compost. Ora, il salto di qualità dalla inefficienza all'efficienza non è certamente l'entrata dei privati e io credo che da questo punto di vista, beh, purtroppo mentre qui si discute ancora di ipotesi, temo che si possa toccare con mano il fatto che in alcuni settori ci sia molto di più che un'ipotesi e qui posso fare decine di esempi. La discarica, Assessore Vitali, di rifiuti solidi urbani di Conversano, provincia di Bari, dove la città di Bologna per lungo tempo ha portato il suo rusco a 700 km di distanza, è una discarica privata sulla quale il Comune di Bologna si è appoggiata, forse non sapendo, ma se non lo sapeva è tutto suo demerito, che questa discarica privata, momento e oggetto di lucro per un'impresa di un certo tipo, era la valvola di sfogo per Bologna, ma non era certamente... non rappresentava certamente un elemento di garanzia per la gestione ecologica dei rifiuti e di garanzia per la salvaguardia dell'ambiente. E così l'elenco delle privatizzazioni già fatte, non ipotizzate, è enorme. Posso dire la discarica di Barricalla, vicino a Torino, dove l'Emilia-Romagna porta una parte dei suoi rifiuti tossiconocivi. Anche lì troviamo, guarda caso, 33% di azioni della Lega delle Cooperative. Allora, io sono d'accordo con Boghetta quando diceva il controllato non deve coincidere con il controllore, nel senso che io ho delle riserve anche sul fatto che certi servizi vengano gestiti da municipalizzate. Perché? Facciamo l'esempio, quindi io sono assolutamente contrario alle privatizzazioni, ma anche sulle municipalizzate. Facciamo l'esempio della gestione dell'acqua a Bologna, a Reggio Emilia o a Ravenna, dove chi ha assunto una posizione più garantista per quanto riguarda la qualità e le caratteristiche dell'acqua nei conflitti che spesso si verificano tra USL e ente che gestisce l'acqua. La posizione più garantista è stata sempre assunta a Reggio, a Bologna, a Ravenna, dappertutto dall'USL. Ma questo non perché necessariamente i funzionari delle municipalizzate sono ignoranti, no, non perché, ma perché per principio, per definizione, se il controllato coincide con il controllore, è evidente che porta, nel momento in cui gestisce questo prodotto, che in questo caso può essere l'acqua, tende a gestirlo con un occhio particolarmente benevolo e a sorvolare, per esempio, sul tipo di inquinamento che c'è anche a Bologna, per esempio, di alcune sostanze derivanti dai cicli e dai processi industriali. Il problema delle ristrettezze finanziarie degli enti locali è un problema reale, però io credo che fino a quando gli enti locali avranno un atteggiamento nei confronti del governo di tipo questuante, cioè fino a quando si lamenteranno del fatto di avere pochi soldi e non entreranno nel merito di un'altra questione molto banale, e che cioè se l'ente locale assumesse un'altra politica per quanto riguarda la prevenzione dell'impatto ambientale, che consiste nell'accollare all'impresa privata i costi dell'impatto ambientale, beh, allora voglio dire, chi sgancia la lira si trova. È chiaro che il percorso non è lineare, però oggi la Corte di Cassazione, tanto per fare un esempio che non riguarderà Bologna ma che è emblematico, la Corte di Cassazione dice le porzilaie devono scaricare secondo la tabella C, secondo la tabella A della legge Merli, perché sono impianti industriali, in Emilia Romagna non c'è una sola porzilaia che scarica in queste condizioni. Allora cosa succede? Che il pubblico interviene, gli enti locali intervengono con atteggiamento questuante nei confronti del governo e dicono: beh, se non ci date dei miliarducci qui non riusciamo a tutelare l'ambiente, non riusciamo a tutelare l'Adriatico. Qui voglio dire, i soldi ci sono, non vengono fuori nel momento in cui la diatriba si limita a un conflitto tra enti pubblici, tra ente locale e governo. L'ultimissima cosa sul problema delle farmacie. Io ritengo veramente molto problematico, voglio dire, assessore Vitali, che l'assessore dica non capisco per quali motivi bisognerebbe difendere l'intervento pubblico nel settore della distribuzione del farmaco, perché voglio dire, che ci siano delle differenze tra gestione pubblica e gestione privata non soltanto è palese per chi vive a Bologna, ma è palese per esempio anche per Marina Rossanda, che ha fatto un articolo su questo argomento sul Manifesto alcune settimane fa, nel quale articolo ha detto: certo, se la gestione pubblica delle farmacie è quella di Bologna, beh, allora privatizzare non cambia assolutamente nulla, ma se è quella di Reggio Emilia, ma anche su questo i compagni di P si sono soffermati nel loro volantone, se è quella di Reggio Emilia, allora è una gestione veramente pubblica, è una gestione che non tende a fare commercio e business sulla vendita del farmaco, è una gestione che, per esempio, diceva anche Democrazia Proletaria, che atteggiamento ha la farmacia pubblica, per esempio, rispetto al tossicodipendente? Ha un atteggiamento culturale, materiale, proibizionista o non proibizionista? Beh, qui l'atteggiamento che ha una farmacia rispetto al tossicodipendente può essere un elemento estremamente importante dal punto di vista del contenimento o della diffusione dell'AIDS. Per cui, per concludere, ecco, io credo questo, che veramente siamo di fronte a un momento di calo di tensione e di arretramento della sinistra. Ecco, io credo che certo, prendere atto del fatto che il socialismo reale sta crollando a pezzi, questo è un dato di fatto che è sotto gli occhi di tutti. Io credo però che non debba crollare a pezzi, o comunque non debba essere negata un'altra contraddizione, che pur crollando il socialismo reale rimane tutto in piedi, e che è quella del conflitto storico che è sempre esistito, esiste oggi, esisterà anche in futuro, il conflitto storico tra l'interesse privato e l'interesse collettivo. Bene, in questo conflitto storico tra interesse privato e interesse collettivo, io credo che l'ente locale e l'ente pubblico debba schierarsi da parte della difesa dell'interesse collettivo, perché in verità, mentre noi stiamo parlando di privatizzazioni, le privatizzazioni, se io solo penso alla gestione dei rifiuti tossiconocivi, se penso alla vicenda della Karen B, se penso al fatto che si sganciano ogni mese in regione alcuni miliardi per bonificare siti inquinati da attività produttive private, e sui quali finanziamenti poi c'è un lucro successivo di altre aziende private che intervengono a disinquinare quello che altri privati hanno inquinato, io credo che a questo punto il crollo del socialismo reale non debba comunque farci perdere il bandolo della matassa, anche perché mi sembra che a questo punto il bandolo della matassa è sotto gli occhi di tutti, e quindi da questo punto di vista il re è nudo e gli amministratori pubblici bisogna che se ne accorgano. Betti, andato via. Nasi, io chiederei, siccome ci sono dunque ancora altri tre iscritti, chiederei, per evitare che l'ultimo parla di fronte a un'assemblea che si è svuotata, poi a un certo punto il custode ci caccia via, chiederei di intervenire 5 minuti, poco più. Va bene, io la faccio brevissima, molte cose sono già state dette nell'intervento di Boghetta all'inizio, quindi fornirò solo alcuni dati perché è interessante spiegare le cose. Voglio dire, parlo delle privatizzazioni che stanno avvenendo nella sanità, cioè, voglio dire, saltiamo tutto il discorso del ministro De Lorenzo, veniamo a quelle già in pratica. Quello che citava Boghetta era il famoso appalto delle pulizie, che poi non è solo all'USL 28, quindi non solo a Sant'Orsola, ma c'è anche alla 27 e così via. Comunque, tanto per capire com'è questa cosa, innanzitutto qui leggi di mercato nessuna, perché il CIO, voglio dire, riunisce le tre aziende più grosse, Gamba, Operosa e Manutencoop, quindi regime di monopolio assoluto, queste fanno il prezzo, vincono le gare e così via. Quindi qui sgomberiamo il campo dal fatto che questo è. Poi andiamo sul concreto di queste cose. Nel progetto si diceva che l'appalto delle pulizie avrebbe sostituito 180 lavoratori. Benissimo. Questa cosa viene a costare in un anno circa 7 miliardi che a conti fatti molto molto in breve finanzierebbero 350 operatori sanitari che si chiamano ausiliari sociosanitari. Tenete presente che questi 350 sono esattamente il doppio dei lavoratori privati e che avrebbero più funzioni, quindi potrebbero pulire ugualmente l'ospedale e fare anche tutte le altre funzioni che la loro specializzazione gli può dare. Questa cosa è già venuta in pratica, non è più solo un progetto, sono già mesi che funziona. Il funzionamento in pratica di questa vicenda cosa ha portato? Abbiamo fatto una breve indagine e qui c'è l'elemento più interessante della cosa. E visto che sono anche cooperative e anche grosse, voglio dire, ve la racconto così molto in breve. Succede da ormai 2 mesi, per far fronte a che cosa? Al lucro di cui hanno bisogno questa gente, succede che sono negati completamente tutti i diritti sindacali e di qualsiasi tipo ai lavoratori, nel senso che i lavoratori di queste cooperative, oltre a prendere meno, perché sono sotto il milione, quindi questo vi potete immaginare che livello di stipendi, lavorano 7 giorni su 7, senza giorni di riposo, fino a 25-28 giorni prima di avere il primo riposo. I lavoratori a part-time, perché ci sono anche parecchi lavoratori a part-time della Manutencoop, che è l'azienda che ha la partecipazione più grossa, lavorano fino a 40-50 ore alla settimana, quindi ovviamente oltre alle ore di contratto che sarebbero al massimo di 40. Il risultato finale, tutte queste ore in più lavorate non figurano nemmeno nelle buste paga, perché nelle buste paga figurano le regolari 150 o rotte ore che dovrebbero essere pagate. Il quadro dell'appalto è questo. Le pulizie, se vogliamo andare, vi risparmio l'elenco noioso del fatto che tutto questo non funziona e che è molto peggio di prima, che vengono fatte negli orari sbagliati, non è rispettato nemmeno le virgole del famoso capitolato d'appalto. Il risultato finale di tutta questa baracca è che è calata la pianta organica, non vengono riassunti ausiliari perché dovrebbero essere sostituiti da questo, l'ospedale non viene pulito e questo qui è il controllo pubblico che viene fatto con la privatizzazione. Io non la faccio più lunga, questi qui erano solo dei dati. Brunetti. Stavo dicendo a Boghetta prima che me la prendevo un po' anche con la privatizzazione degli interventi, perché mi ero iscritto come quarto a parlare. Comunque. No, no, certo, comunque. Dico quello che penso, scusa. E infatti la faccio brevissima. Io direi che sono d'accordo più o meno su quello che hanno detto tutti, anzi sono estremamente contento del fatto che poche persone hanno iniziato 6 o 7 mesi fa, partendo dalla battaglia sul precariato in comune e negli altri posti di lavoro nella città, in fiera, nelle scuole, per parlare di privatizzazione quando non ne parlava nessuno, e che oggi si sia costituito perlomeno anche un, chiamiamolo fronte, un fronte estremamente minoritario, ma che comunque ha una sua compattezza e che ha capito qual è il problema, che è un problema. La paga di un dipendente privatizzato, in questa busta paga questo dipendente lavorava col comune come insegnante precario, guadagnava lorde 11.700 lire l'ora, poi è stato passato a una cooperativa, a questa cooperativa ha guadagnato 9.300 lire l'ora e poi quando la situazione non era più calda, cioè quando il comune in maniera illegale e cioè senza delibera, e di questo ne dovrà rispondere anche l'assessore Vitali poi davanti alla Corte dei Conti, ha dato l'incarico ancora alle cooperative, guadagna adesso 8.300 lire l'ora. Il servizio è peggiorato e il lavoratore guadagna 3.000 lire l'ora in meno, questo è un dato concreto. Ma, scusa Vitali, siccome ti sto facendo una cosa per la quale magari mi puoi anche denunciare, ti prego di ascoltarmi, ti volevo dire solamente questo, che tutti hanno chiesto il perché della privatizzazione. Perché? siccome qua ormai è una Babele di linguaggi, no? Nella quale non si capisce più nulla, cioè, se a questo punto io dico, io che sono amministratore, magari il giornalista dice il tale che ha detto che era amministratore, e allora la notizia passa che il tale era amministratore, magari tu facevi l'opposizione. Il giochino che abbiamo detto, no? Della Thatcher, che dice che è come Lenin, e Vitali che dice io non sono come la Thatcher. Dico, siccome la Babele di linguaggi è enorme, io credo che l'unica cosa da dire vera e concreta è che da un lato c'è un ceto politico che è il vostro, che è alla frutta, cioè nel senso che ha bisogno di perpetuare se stesso e se le inventa tutte. Dall'altra, e questa è la cosa più grave, è che voi amministrate dei soldi dei cittadini. E quando voi amministrate dei soldi dei cittadini, ne siete responsabili. E allora nel momento in cui delle privatizzazioni che andate a portare avanti e che avete portato avanti già, tipo il contratto con l'AGI Petroli per il calore. Dal contratto con l'AGI Petroli per il calore è successo che il comune spendeva un quarto prima riscaldando in proprio di quello che spende adesso con l'AGI Petroli. Allora io ti dico, o questi soldi tu li butti via o li rubi. Il problema è solo questo. O i soldi che la collettività spende per il servizio dei precari della scuola, per il servizio delle pulizie negli ospedali, per la COP, per l'AGIP Calore, per tutti questi servizi, spende quattro volte quello che spenderebbe se li gestisse per conto proprio, allora voi siete responsabili davanti agli utenti, oltre che davanti ai lavoratori, del fatto che voi questi soldi o li sprecate. Oppure, se queste cose succedono nel sud, la chiamate mafia. Qua come la chiamiamo? Cattiva amministrazione solamente? Ti voglio ricordare solo una cosa. Il sindaco Zanardi, che era chiamato il sindaco del pane, in maniera forse non troppo legale, prendeva soldi dalle casse comunali per finanziare dei negozi privati, i quali negozi privati dovevano però dare il pane a metà del prezzo ai cittadini. Voi state facendo esattamente il contrario. Voi prendete i soldi dalle casse comunali per far guadagnare di più i negozianti che vendono la roba ai cittadini e che la pagheranno di più. Questa è la differenza tra voi, ma voi volete continuare a chiamarvi socialisti e comunisti, volete cercare di nascondere quell'affarismo di cui tu hai parlato riferito allo Stato. Cioè, in realtà tu l'affarismo, l'intreccio tra affari, politica, criminalità politica, tu hai detto lo fanno a livello nazionale, signori, lo facciamo anche noi a livello locale, così siamo uguali agli altri. Questa è la realtà delle cose che bisogna dire. Cioè, i partiti, per poter rubare di più, fanno le privatizzazioni, per potersi sottrarre al controllo pubblico fanno le privatizzazioni, perché così se togliamo i dipendenti dalla possibilità di andare al tribunale amministrativo, togliamo i cittadini dalla possibilità anche loro di ricorrere al tribunale amministrativo, la responsabilità di chi è? E non è più di nessuno, è vero, perché l'imprenditore se la sa cavare meglio di fronte alla legge. E il Vitali dice, se il privato ha lavorato male è colpa del privato, se il privato ha lavorato bene è merito mio. Ma voi credete di continuare a prendere in giro molto la gente? No, non credo che ci riuscirete. Cevenini. Io sono per natura timoroso delle semplificazioni, perché ho sempre paura che semplificando troppo alla fine si vada a tagliare la testa a qualcuno senza magari neanche aver fatto un processo corretto. Per cui su tutta una serie di cose che sono state dette ho certamente la convinzione che sono state dette con lo spirito giusto, ma probabilmente occorrerebbe ponderarle di più, e siccome non credo che stasera finisca il mondo, chiedo anche agli amici di Democrazia Proletaria di eventualmente fare una specie, come dire, di carovana della diffusione dei problemi di Bologna, viaggiando in coppia, che ne so, Boghetta, Vitali, che vanno in tutti i quartieri e vanno a fare un giro di assemblee con tutti i cittadini. Che sarebbe interessante, perché il Partito Comunista le ha già organizzate per conto suo queste cose, ovviamente la maggioranza erano iscritti al partito, e lì sono venute fuori delle cosine anche piacevoli di artigiani iscritti al partito che vedevano degli spazietti, dove degli interstizi, dove potevano collocare, che ne so, una loro proposta. Cioè, sarebbe bello aprire un dibattito nella cittadinanza. Diciamo che invece di fare la prossima estate, estate sogna, ecco, vediamo di fare un inverno caldo, insomma, caldo dal punto di vista del dibattito pubblico. Però mantengo comunque questa pausa attorno a tutta una serie di problemi. Siccome tanti hanno già parlato, io mi voglio fermare solo su un punto e prendo come spunto di partenza quello che mi pare un dato centrale, reale, che è la crisi dello Stato fiscale. Boghetti ne ha detto parecchio su questo, non voglio stare a riprendere, però dico che qui lui ha aperto una finestra e da questa finestra occorrerà cominciare a vedere quali orizzonti si vedono. Se questa situazione è vera, e io credo sia vera, indipendentemente poi da come è stato gestito il nostro paese, che sono tutti problemi seri, purtroppo però qui in Italia tutti continuano a votare Democrazia Cristiana, non lo so, vabbè, evidentemente va bene così. Dal punto di vista invece dei problemi qui a Bologna, qui ora, io credo che si apra quello che è stato un dibattito teorico molto così sui generi, che è stato fatto anche a Bologna e all'inizio degli anni 80 forse, 75, 76, 80, fino all'80, ma circolava come moda di discorso, che invece secondo me, io tra l'altro ho letto il libro in questi giorni, ma non solo il libro, anche altri materiali, è di fondamentale importanza. La società a somma zero. Per capirci, oggi questa amministrazione, al di là di privatizzazione, di tutte queste cose che mi trovano sostanzialmente d'accordo, anche se torno a ripetere bisogna andarci a mettere le mani, c'è un problema vero. A chi si dà e a chi si toglie? Perché questo è il problema. Cioè, siccome la torta è questa, si possono fare queste fette, allora chi mangia e chi sta a guardare? Bisogna che in questa città, e io invito qui caldamente l'assessore Vitali, Walter, scusa questa sollecitazione, lo invito a fare cosa? A proporre, lui ha parecchio potere oggi nell'amministrazione comunale, perché sotto di lui si è accorpato la risorsa personale, le risorse finanziarie, cioè praticamente direi che sei il delfino, impredicato, non so, di futuro sindaco forse, in prossimi anni, se resterete sempre voi ad amministrare. Allora, dicevo, lui ha potere, può proporre in giunta e poi in consiglio comunale, probabilmente passa perché riescono a fare maggioranza, comunque, per svariati motivi, un opuscoletto, ma fatto bene, chiamiamo dei glottologi, cioè voi sapete chi chiamare quando non avete bisogno, si vede anche l'equipe che avete costituito per tutto il rimescolo, chiamate della gente competente e fate su un linguaggio abbastanza comprensibile un opuscoletto tipo l'AIST, l'hanno mandato a mia nonna a 96 anni, cioè poveretta, capisco che le avrebbe fatto piacere essere violentata da uno che aveva anche l'AIST, che era sieropositivo, però insomma l'hanno mandato a tutti, beh possono mandare anche questo. O i cittadini di questo documento non ne debbono sapere nulla. Io non dico tutta la pappardella, che è tanta, e che va studiata. Però, voglio dire, le parti fondamentali che li riguardano, escludendo le analisi, eccetera, si può fare e si può mandare ai cittadini. E poi facciamo la carovana dei dibattiti, perché sarebbe interessante vedere cosa viene fuori, al di là degli steccati, delle paratie, delle parrocchie, di tutte le cosine gestite abbastanza in ristretto. Allora, torniamo alla società a somma zero. Se la torta è quella, io credo che qui si aprirà una faida fra di noi, fra cittadini bolognesi, perché già dei problemi li abbiamo. E io sono stanco di dover fare lo struzzo. E qui lo dico e non lo nego, qui lo dico e non lo nego, bisognerà che cominciamo a parlare di come in questi anni, oltre a tutte le cose che sono state dette, i soldi buttati, Arena del Sole, eccetera, cose che si potrebbero fare per recuperare, noi dobbiamo parlare anche di una realtà rispetto alla quale fa scomodo a tutti parlarne. Noi abbiamo una diminuzione della popolazione residente a Bologna molto alta, forse più alta rispetto ad altre città o ad aree metropolitane, va più di moda oggi, dell'Italia. Questo calo demografico è compensato con un aumento spropositato da una presenza di persone che vengono alla nostra città per svariati motivi, i quali però, se mi è concesso dirlo, e capisco che possa aprire dei problemi, ma su questo bisognerà che cominciamo a discutere anche e in modo approfondito, consumano i servizi pagati da questa collettività e pagano o non pagano le tasse, stando sempre al discorso che veniva fatto da Boghetta, nel posto di provenienza. Io credo che qui bisogna cominciare a riequilibrare in questo paese tutta una serie di questi aspetti. Io non ci sto che uno del Veneto fa registrare, perché ha preso la residenza qui, perché si è spostato al posto di lavoro, fa registrare la nonna di 82 anni che risiede presso di lui, poi c'è solo il giorno in cui vengono i vigili e chiede l'assegno d'accompagnamento perché la fa risultare invalida e prende i soldi della regione Emilia-Romagna, e in Veneto invece la nonna sta là a casa sua e il Veneto non spende una lira. Io comincio a dire che qui bisogna, senza rientrare nelle logiche dei comuni, però bisogna cominciarsi a porre il problema di un riequilibrio trasversale anche della finanza che nasce dal sistema fiscale. E su queste cose si può anche ridere, si può anche ridere, ma se noi pensiamo che anche quest'anno un certo tipo di popolazione, quella studentesca, è aumentata di migliaia di unità, che consumerà servizi, che creerà problemi, dice Vitali non c'è la casa in affitto, ma vorrei vedere come può esserci la casa in affitto. Se io ho una casa, ammesso che io la possa avere, è chiaro che faccio 6 stanzine o 3 stanzine riducendo lo spazio interno e poi dopo le do 400.000 per letto. Non c'è dubbio che io la dia in affitto, io la do a uso foresteria, la do in questo modo qui, in un sistema di questo genere. Ma è chiaro che posso fare questo e faccio questo, oltre perché non ci sono i controlli dell'amministrazione comunale, quindi si fanno tutta una serie di operazioni bieche, ma anche perché c'è uno stimolo di mercato che mi permette di farlo. E questo stimolo di mercato è dato dal fatto che in questa città ci sono dei servizi che sono stati regalati, e ve lo voglio dire perché forse qualcuno di noi ha veramente perduto la memoria, come diceva Sassi, perché nel 77 bisognava recuperare una frangia di terroristi, paraterroristi, vetrinisti e quant'altro. E allora per recuperare tutti questi, Piano Giovani da una parte, quindi Goduria, Circens, e poi dall'altra parte invece tentativo di recuperarli attraverso i servizi. Oh, voi ridete, ma questo è un dato di verità e riguarda non solo questo tipo di popolazione, riguarderà il flusso degli immigrati di colore, più o meno chiari, perché noi adesso non ce lo poniamo ancora il problema, ma quando qui si cominceranno, come si dice in questo progetto e come è stato deliberato ieri sera in Consiglio Comunale, che si costruiranno case per gli immigrati di colore, voi credete che non ne cominciano ad arrivare degli altri? Io non sono mica razzista, ho degli amici fra i neri e sono pregevoli come persone, però credo che immediatamente si apriranno dei problemi su queste questioni, si apriranno dei problemi, dovremo arrivare a discutere fra di noi per decidere a quanto rinunciamo del nostro essere cittadini sociali, cioè di quanti servizi facciamo noi la scelta di essere rinunciatari, perché altri ne possono destinare, perché se la torta è questa non possiamo aumentarla. È questo quello che ci viene detto. Io vorrei che, al di là di tutte le battute, eventualmente anche delle etichette che mi si possono venire, me le potete mettere dappertutto, che divento come una valigia di quelli che hanno girato tutto il mondo, al di là di tutte le etichette di matto, di razzista, no, io cerco di fare dei ragionamenti su dei dati di fatto obiettivi. E quindi vi chiedo di pensare anche a questo problema, che in termini schematici, come slogan, è stato definito la società somma zero, perché qui oramai da mangiare non ce n'è più molto e bisognerà vedere chi morde e chi sta a guardare. Do la parola per l'ultimo intervento a Rosario Lobianco. Ecco, subito dopo darò la parola invece per una breve replica ai due oratori, cioè a Vitali e a Boghetta. Dunque, io sono un giardiniere del Comune di Bologna e vi voglio fare un esempio di cosa vuol dire dare in mano il lavoro ai privati. Io ho lavorato con una cooperativa prima di essere dipendente del Comune, abbiamo piantato degli alberi in 5 cm di terra e sotto c'era la strada. Figuratevi voi queste povere piante come potevano nascere. chiaramente la cooperativa non gliene fregava niente, tanto il lavoro era in appalto e lei bastava che ci guadagnasse. Un altro lavoro che è stato fatto ai Giardini Margherita, che poteva costare 3 milioni, è costato oltre 50 milioni, questo me l'ha detto un mio collega idraulico, la ditta che l'ha fatto addirittura ha anche sbagliato il lavoro. Se questo qui è quello che si vuole ottenere dando il lavoro ai privati, auguri ragazzi. Vorrei chiedere anche al signor Vitali qui se ha mai lavorato da un privato, perché se no, in caso contrario, gli auguro di provare l'esperienza. Allora, adesso la parola a Vitali. L'intervento delle precari dei minimi è stato concesso l'intervento. Dagli tempo per alcuni. Cerca di essere breve perché. Sì, sì, sono breve. Se no è custodio per fare straordinario non pagare. Io sono Pantaluigi. Faccio l'idraulico del pronto intervento del Comune di Bologna. Nel 75 è stato formato i GOT. Noi eravamo contrari. Hanno voluto l'amministrazione formare i GOT. I GOT non hanno funzionato. In questo caso, dopo di questo, ci siamo riuniti, hanno fatto delle persone hanno cominciato i lavori agli artigiani, hanno cominciato gli artigiani, anche questo non ha funzionato. Adesso hanno provato di far saltare di fare questa invenzione di darci il lavoratore 2.400 dipendenti all'impresa. Ma io mi domando, l'assessore Vitali e il sindaco si rendono conto che noi abbiamo fatto un giuramento verso il comune? Non lo so. Noi abbiamo fatto un giuramento verso il comune, non all'edilizia privata. Non lo so, se questo tengono conto. Io mi domando, in Palo Fabri ci sono 4 muratori, 8 impiegati. Come si fa a funzionare? Ma l'amministrazione sa amministrare sì o no? Ma questi dirigenti sanno amministrare sì o no? Ma se non sanno amministrare vado a fare un altro lavoro. Non è concepibile. Non è possibile andare avanti in questo modo. Io è 17 anni che lavoro in comune. Io non so come si fa. Arrivare a questo punto, ecco, c'è la questione dell'acqua. L'acqua funziona per forza, ma dirige anche meglio, dirige, ma se il comune non sa dirigere, non ha colpa i dipendenti. Io vedo nel settore mio, dove lavoro io, è una cosa disastrosa. Non abbiamo dirigente che... Ognuno deve avere una mansione, un dirigente deve avere una mansione che sia capace di dirigere. Non che sia incapace, che un dirigente che sia capace, che sia un elettricista vada a dirigere un fontaniere, o un elettricista vada a dirigere un falegname. Hanno fatto degli assistenti che fanno, si guardano uno con l'altro. Eravamo in 40 operai e adesso siamo diventati in 10 operai. E cioè, solo dei impiegati. Come fa a funzionare la macchina comunale in questo modo? No, non è possibile andare avanti così. Ci vuole dei dirigenti che sappiano dirigere. Ecco, dovrei dire tante cose. C'è la questione dell'autobus, c'è la nettezza urbana, c'è la questione della casa, c'è in via della Bacca le scuole Certani. Sono 5 anni che sono vuote, adesso le hanno date ai negri lì. Ma io dico, non ci penso che i compagni mi vengono a dire, ma sono persone anche loro, ma sono convinto che hanno diritto anche loro, sono d'accordo. Ma pensate prima ai nostri cittadini che hanno dato il contributo prima di loro. Questa è la coscienza. Moltissime osservazioni, in larga parte, anzi in grandissima parte critica, anche se mi pare che alcune privatizzazioni, ad esempio Boghetti le avesse proposte, in particolare quella dello stadio, può essere un'idea, ecco, non escludo una discussione in questo senso. Comunque sia, Boghetti diceva che vi sono cose molte su cui siamo in disaccordo e cose non molte, però importanti, su cui siamo d'accordo, e che vorrei partire da qui. In particolare da questo tema della casa, ecco, anche Buonforte l'ha ripreso, ma personalmente io su questo sono assolutamente d'accordo sulle critiche alle insufficienze delle nostre politiche in questo campo. Poi possiamo discutere del perché. Francamente ritengo, mi sarebbe piaciuto che Cervellati fosse stata presente qui stasera, perché a questo proposito l'intervento che ci è stato letto parte da un'informazione quantomeno piuttosto approssimativa delle nostre proposte, perché lui si riferisce ad una, se non sbaglio, dismissione massiccia di immobili comunali operata nel ventennio nel centro storico di Bologna. Ora noi a questo proprio non pensiamo affatto. Francamente non pensiamo neanche a diciamo non considerare il valore strategico delle aree di proprietà pubblica per quanto riguarda la gestione del piano regolatore. Tant'è vero che da un lato ci battiamo perché finalmente sia firmata la convenzione per tutte le aree militari demaniali che ci sono attorno ai viali, dall'altra ci battiamo perché finalmente venga approvato un nuovo regime dei suoli che metta in condizione le amministrazioni locali di andare con prezzi di esproprio, non con prezzi di mercato quando appunto si fanno gli espropri. Da questo punto di vista, quindi, l'uso dello strumento pubblico, della proprietà pubblica, sia degli immobili che del suolo, e per governare lo sviluppo della città, piano regolatore che contiene scelte di grande importanza, credo soprattutto di carattere ambientale, e anche per intervenire sul tema abitativo, ecco, questo mi pare un punto su cui si può convenire. Il discorso della finanziaria che ha fatto DP, e che, mi ricordo, lo stesso Partito Comunista in una certa fase avanzò, la finanziaria casa, lo studio che è stato commissionato a un certo punto, andiamolo a vedere, studiamolo. Io in questo campo non sono molto esperto, ecco, per questo anche nel documento non siamo andati molto in là, però ci è stato detto che esiste un esempio funzionante, non so se corrisponde al vero, in Francia, di un intervento pubblico in materia che è organizzato direttamente dallo Stato e che per l'appunto combina la gestione in qualche modo di forme di patrimonio, di proprietà pubblica con interventi finanziari per sostenere la casa in affitto. Poi i paesi sono fra loro molto diversi, dobbiamo anche parlare del fatto che in Italia la quota di edilizia residenziale pubblica è molto bassa rispetto ad altri paesi europei, adesso non solo la Francia, però rispetto ai paesi del nord Europa siamo a quote ridicole. Ecco, in ogni caso qui vedo un punto importante che noi indichiamo come prioritario e che anche, anzi diciamo su questo vogliamo recuperare risorse per reinvestirle, che mi pare almeno nella discussione di stasera non sia stato messo in discussione. Così come io convengo sul fatto che il tema ambientale debba essere di assoluta prevalenza pubblica, proprio per le garanzie che il pubblico dà rispetto a qualunque privato e perché lì si gioca e fondamentalmente il diritto dei cittadini alla salvaguardia dell'ambiente. Adesso, quando Totteri parlava di una privatizzazione del sistema dello smaltimento dei rifiuti, francamente non so a cosa si riferisse, perché personalmente io ho detto un'altra cosa, cioè io ho detto che bisogna fare un'unica azienda, bisogna rafforzarla, occorre esaminare una ipotesi che c'è stata avanzata da parte degli industriali, ad esempio, per quanto riguarda il tema dei rifiuti industriali che nella nostra provincia vengono attualmente presi e portati nessuno sa dove, a me risulta, tra l'altro a prezzi molto elevati. Però prego. Hai proposto l'incenerimento, il raddoppio dell'incenerimento. Sì, certo. Quando esistono degli esempi, no, di amministrazioni tipo Sociale, tipo Pistoia, che dal 1960, invece che spendere un tot al giorno per fare i rifiuti e inquinare da qualche parte, li ricicla, va in pari, pur avendo un impianto vecchio, e tutti i vivai della zona di Pistoia sono concimati con quel complice. Io l'assessore all'ambiente ho portato due anni fa la proposta non di Brunetto o di qualcun altro, del comune di Pistoia. Sai qual è stata la risposta? Beh, ma vuoi scherzare con tutti i soldi che ci sono in gioco? Testuale è stata la risposta. Adesso io non so la risposta, non la risposta. Comunque questioni di questo genere, anzi a tal punto che quella esperienza di compost a cui lo stesso Totile si riferiva di Agripolis, con oneri piuttosto rilevanti e anche con operazioni discutibili sotto questo profilo e discusse, noi ce ne stiamo facendo carico perché la nostra azienda Lamio ha acquisito l'impianto e, nel corso, e quindi si realizzerà un impianto diciamo di smaltimento anche in questa forma di compost dei rifiuti. Però al di là di tutto volevo semplicemente dire questo, che non c'è nessuna intenzione di privatizzare lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti, che anzi da questo punto di vista la funzione pubblica è essenziale. L'unico discorso che è stato fatto è quello di esaminare questa ipotesi, che non è però di affidare agli industriali, ma eventualmente di costituire anche lì uno strumento societario. Tutto da discutere. Però visto che è una questione che è stata avanzata, visto che è stata avanzata da tutti, artigiani compresi, quindi anche piccole e piccolissime imprese, discutiamolo. Ma nessuna intenzione, nessuna di volontà di privatizzare un settore strategico come quello del trattamento ambientale. Quanto al tema delle farmacie che tu ponevi, capisco la differenza, però io insisto un po' sulla mia posizione. Francamente, se vi è la necessità di svolgere e un servizio sociale di distribuzione del farmaco e campagne informative a proposito dell'uso del farmaco ed eventualmente avere anche delle farmacie aperte 24 ore al giorno, io francamente continuo a non capire perché non si possa raggiungere questi medesimi obiettivi anziché gestire gestendo le farmacie direttamente in convenzione con farmacie gestite anche da altri. Ad esempio, per quanto riguarda l'apertura di una farmacia 24 ore al giorno, anziché averne una in queste forme, potremmo averne no, almeno una per ogni quartiere, senza doverle gestire noi direttamente. Questo secondo me è un esempio di come la proposta della Giunta intenda ragionare non in termini di principio ideologici a prioristici, ma per settori di attività. Se si giudica, perché si può benissimo non essere d'accordo, come tu hai detto, il settore delle farmacie come non più strategico, io penso nulla osti a dismetterlo ricavando risorse per altri investimenti. Se invece non siamo d'accordo, certo, un altro paio di maniche. Il tema che poneva anche Boghetta e altri interventi della contrapposizione tra pubblico e privato in termini di efficienza. Ma io personalmente non ritengo affatto che il privato sia più efficiente del pubblico. In termini così generici mi rifiuto di fare la comparazione e discuto di settori e di attività. Dico ad esempio che il pubblico è assolutamente concorrenziale con il privato, è assolutamente più efficiente, guarda caso, in materia di asili nido. Noi siamo più bravi di tutti nell'organizzare asili nido, dei privati innanzitutto. Siamo più bravi, sì, perché chiunque di voi abbia un'esperienza di asilo nido privato sa cosa vuol dire. Sono 450.000 lire al mese diretta, con una qualità molto discutibile. Poi si può discutere dei nostri asili nido. Lo so, però intanto noi facciamo spendere 180.000 lire al massimo, che probabilmente sono tanti, ma sono sicuramente meno delle 450.000 lire che fa pagare il privato. E la nostra qualità dei nidi, anche grazie a chi ci lavora, è incomparabilmente migliore. Anche grazie a chi ci lavora. Vabbè, qui abbiamo un punto di vista diverso, insomma non dobbiamo essere d'accordo necessariamente su tutto. Ecco, una cosa che io francamente non comprendo è ad esempio perché Brunetti mi difenda il TAR. Io sotto questo profilo davvero non capisco più che la sinistra si sia ridotta a difendere le vecchie regole dello Stato burocratico di tipo napoleonico. Ecco, questo è il classico bidone di benzina vuoto, ma anche i francesi che l'hanno inventato lo stanno per fortuna superando. Allora, vogliamo finalmente acquisire un punto di vista che non è così privatizzazione, è un punto di vista di sinistra, secondo il quale le regole dello Stato amministrativo, quello napoleonico, vanno bene quando il pubblico pianifica e controlla, cioè quando io comune rendo una licenza edilizia o faccio un piano regolatore, è giusto che vigano le regole del diritto amministrativo, che ci sia qualcuno che controlla preventivamente i miei atti. Ma quando io gestisco qualsiasi cosa, un servizio in particolare, il servizio NID, così come altri servizi, quelle regole sono assolutamente paralizzanti e sono da superare. Sei tu che mi difendi il TAR, e questo, ma no, ti sbagli, consentimi, dico la mia opinione. No, vabbè, io pensavo fossi di sinistra, chiedo scusa. Scusa, però, siccome a Vitali sono già state dette di cotte e di crude, credo che sia inutile continuare con... No, ti ringrazio. No. Non è per difendere Vitali, però penso che sia inutile continuare dei battibecchi privati. Sì, cioè io in sostanza volevo dire questo, che è proprio questo tipo di regole amministrative che paralizzano la capacità gestionale del comune e delle amministrazioni in materia di servizi che vanno superate, proprio per mettere il pubblico nelle condizioni di funzionare al meglio e quindi per difendere anche il pubblico non solo quando pianifica e controlla ma anche quando gestisce. Se noi proponiamo, a differenza dei servizi sociali, educativi e sanitari, in alcuni altri settori come le manutenzioni, forme diverse dalla gestione diretta, e anche per le cose di cui ci diceva l'ultimo intervento, perché effettivamente è così. Noi siamo pessimi organizzatori e imprenditori in quel campo. Siamo pessimi imprenditori. Siamo perché siamo cattivi amministratori? Guardate, io credo che siamo soprattutto perché a Bologna, anche grazie a voi, e quindi grazie anche ai nostri lavoratori, finire, io mi devo riferire agli interventi, se no faccio fatica, se no fa un dibattito. Ecco. Volevo dire che anche grazie ai nostri lavoratori, e voglio dire, credo a Sassi che è intervenuto, io non ho mai sostenuto in nessuna sede che i lavoratori comunali o pubblici sono lavativi, perché se abbiamo raggiunto dei buoni risultati lo dobbiamo evidentemente anche a loro, se vogliamo quella forma di identificazione degli obiettivi dell'amministrazione di cui parlava Boghetti, però sicuramente lo dobbiamo anche a loro. Quello che noi adesso sosteniamo è una cosa molto semplice, che dobbiamo selezionare i campi di intervento dell'amministrazione, perché abbiamo delle regole di questo tipo. Poi, lo ripeto, possiamo anche essere dei cattivi amministratori, sotto questo profilo siamo sottoposti a giudizio, tra l'altro proprio tra qualche mese, quindi saranno i cittadini, e giustamente, a giudicare della nostra capacità amministrativa. Però io ritengo che al di là di questo vi siano soprattutto regole di questo genere, cui ho riferito, che ci impediscono di essere bravi imprenditori in alcuni settori, e poi soprattutto il fatto che non è nostro compito istituzionale essere dei bravi imprenditori edili, questo semplicemente noi diciamo, mentre nostro compito istituzionale è essere dei bravi organizzatori, guarda caso, di servizi educativi per l'infanzia o di assistenza domiciliare oppure di altri tipi di servizi. Questa è l'operazione. Dopodiché, proprio per evitare ciò che alcuni degli interventi hanno affermato, e cioè che si vada ad una situazione in cui da una parte si blocchi il turnover in alcuni settori, creando un disagio e una difficoltà dei servizi, d'altra parte si va ad un appalto per cui la situazione alla fine anche dal punto di vista della spesa è negativa per l'amministrazione ed è negativa sul profilo del servizio, noi proponiamo di discutere, ma non di imporre, di discutere, poi chiaro, chi non è d'accordo, va bene, lo dirà, di discutere la possibilità di valorizzare quelle energie professionali come le vostre, creando delle imprese miste. Ad esempio nel settore dei pasti, che è un settore nel quale noi funzioniamo bene, perché i pasti del comune, della refezione scolastica, sono buoni anche dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo, c'è il problema dei pasti per l'azienda del diritto allo studio universitario e dei pasti per gli ospedali. Allora perché non pensare a una possibilità mista di realizzare un'impresa che operi in questo campo? Torno a Brunetti per dirgli alla fine due cose e poi concludo. La prima, io ritengo che sia proprio questa forma di diritto del lavoro fondata sui TAR a togliere ogni possibilità nell'ambito del pubblico impiego di allo svolgimento di una dialettica sindacale reale, conflittuale. Perché con questo irrigidimento per cui il contratto di lavoro è un DPR recepito, che poi vengono a sua volta recepiti i regolamenti comunali, ogni questione diventa questione individuale del lavoratore, perché immediatamente c'è il contenzioso davanti al TAR, non c'è mai la questione collettiva. E quindi anche dal punto di vista del sindacato non c'è una vera gestione del contratto, perché non è gestibile il contratto. Si decide proprio in questa settimana a Roma tra le due delegazioni, dopodiché diventa DPR, la discussione è sulla copertura da parte del governo degli oneri e i lavoratori, i sindacati, quale spazio hanno di gestione, ripeto, conflittuale di quel contratto? Io dico nessuna. E allora, qualcuno di voi ha equivocato sulle mie parole iniziali, ma mi parevano molto chiare, sul tema dei diritti e dei doveri. Io dico, vabbè, lasciamo stare. Siamo d'accordo sul fatto che occorre applicare anche nel pubblico impiego lo Statuto dei diritti dei lavoratori? Siamo d'accordo sul fatto che bisogna superare il ricorso al giudice amministrativo per andare davanti al giudice ordinario come fanno tutti i lavoratori? Terzo. Siamo d'accordo sul fatto che bisogna delegificare il rapporto di pubblico impiego e sostituirlo con una contrattazione collettiva nazionale di lavoro? Questa è la domanda. Se non siamo d'accordo, vedete allora, e se non siamo d'accordo, però qui la questione è molto di fondo, perché se non siamo d'accordo vuol dire che voi ritenete che l'attuale sistema di pubblico impiego della relativa contrattazione sia un sistema da difendere. Io non lo ritengo, ritengo che sia un sistema da smantellare, va bene? Poi per quanto riguarda il tema dei diritti e dei doveri, d'accordo, parità di diritti dei lavoratori nel pubblico e del privato non significa certo introdurre nel pubblico impiego i meccanismi di Romiti, non ho certo detto questo, l'avete capito benissimo. Diritti vuol dire più diritti per i lavoratori privati, d'accordo, però vuol dire anche più doveri per i lavoratori pubblici e vuol dire dentro al pubblico impiego la possibilità proprio di premiare quei lavoratori, e ve ne sono molti, tantissimi, che si impegnano attraverso una capacità di rapportarsi con degli obiettivi dati. Ed è anche un problema nostro allora, perché sono d'accordo con molte cose dette, spesso gli amministratori non sono in grado di rendere chiari e trasparenti gli obiettivi per cui lavorano. Ed è questa allora la sfida da fare. Sfidate le amministrazioni su questo piano e naturalmente da parte nostra poi ci deve essere la capacità di impostare un rapporto diverso anche di coinvolgimento con i lavoratori. Per quanto riguarda il tema del contratto calore, io non credo né che noi abbiamo rubato i soldi dei bolognesi né che li abbiamo male amministrati. Se tu ritieni che li abbiamo rubati, con gli elementi che hai in mano, vai alla Procura della Repubblica. Benissimo. Se tu ritieni che li abbiamo male amministrati, sostienilo, questo fa parte di una legge. Scusa Brunetti. Finisco sul tema della trasparenza. Finisco sul tema della trasparenza. Allora, che sia chiaro, poiché con questo piano noi non vogliamo fare gli interessi di altri che non siano la pubblica amministrazione, allora siamo noi per primi interessati al tema della trasparenza. E cioè al fatto che non si creino carrozzoni assistiti, che non si mischino i rapporti tra la politica e la gestione. Tra l'altro noi sosteniamo in linea generale una linea di distinzione delle responsabilità tra politica e amministrazione. Quindi sotto questo profilo, almeno dal punto di vista concettuale, naturalmente dobbiamo dimostrare di saperla applicare, non corriamo e non cadiamo in questo errore. Bene, allora discutiamo delle regole. Noi abbiamo incaricato questo gruppo di esperti di fornirci delle regole di trasparenza, primo nel modo in cui nelle società in cui ora il Comune fa parte c'è il rapporto con l'amministrazione, secondo nel modo in cui si va al rapporto eventuale con questi interlocutori privati. Discutiamo delle regole, perché su questo io sono assolutamente e totalmente d'accordo, proprio a partire dalle nostre esigenze, poiché se tutta questa ipotesi, chiamiamola proposta, perché ovviamente andrà tutta discussa, dovesse poi tradursi alla fine nella creazione di qualche realtà assistita con qualche gruppo più o meno amico all'amministrazione, allora non sarebbe certo valsa la pena, perché io credo invece profondamente nelle capacità innovative di questa proposta, proprio per rilanciare le funzioni sociali e istituzionali del Comune. Bene, sulle regole sono assolutamente d'accordo, bisogna discuterle e bisogna realizzarle affinché siano chiare e trasparenti. Boghetta. Telegraficamente. Io penso che questa serata a Vitali quantomeno dovrebbe servire per porsi un dubbio e una questione. L'enormità degli esempi e la lunghezza, e poi se la serata fosse stata più lunga potremmo averne anche di più, delle situazioni in cui il privato, l'intervento del privato sotto le varie forme ha già praticato questa politica che oggi viene lanciata su con una progettualità molto più grande. Cioè, questo privato ha dimostrato che in realtà è peggio del pubblico sotto molti aspetti, sia sotto l'aspetto della qualità del servizio sia sotto l'aspetto della condizione dei lavoratori, anche se le condizioni dei lavoratori del privato possono più o meno non interessare al pubblico, è un problema sindacale, potrebbe dire il pubblico. Però nel momento in cui facciamo questo tipo di progetto non possiamo non porci questo problema di quali sono le condizioni del lavoratore privato che si trova a lavorare in rapporto con l'amministrazione comunale, sia esso in appalto, sia esso in convenzione, sia in società mista. Questo significa anche però che l'amministrazione comunale, quando ha elaborato il progetto, ha analizzato solo una parte del problema, cioè quella di come rispondere a delle questioni che aveva come amministrazione comunale, la questione dei finanziamenti e quant'altro. Non ha analizzato però affatto qual è la realtà storica, la pratica concreta del privato, perché se questo avesse fatto questo tipo di proposta io credo sarebbe stata diversa, perché si dà per scontato in qualche maniera un ruolo positivo dei privati, di fatto sposando, avvallando quella che è la campagna che da 15 anni ci stanno mollando sulla, sulla privatizzazione, il ruolo dei privati. Cioè, ogni giorno leggiamo, non rimandiamo a Romiti o quant'altro, però di fatto secondo me si sposa questo dato che non è dimostrato, è un dato di propaganda ideologica degli avversari. E questo io credo dovrebbe far riflettere l'amministrazione comunale, se non altro per un supplemento di indagine, se non altro per un supplemento di analisi rispetto al concreto. Perché chi citava il blitz dei carabinieri nelle case di cura, ne sono state citate tante, però qui i privati dovrebbero andare tutti in galera, nella realtà di fatto dovrebbero essere chiusi, perché se un ente locale lavorasse in queste condizioni, tutti i cittadini giustamente lo fanno, protestano contro queste condizioni, i lavoratori hanno anche in qualche maniera anche la forza di difendersi, i lavoratori privati non ce l'hanno questa forza perché sono ricattati. E sulla questione del rapporto di lavoro io voglio dire solo una cosa a Vitali, che oggi giustamente viene rifiutato qualsiasi modifica al rapporto di lavoro perché nessuno si sente garantito rispetto a un cambiamento. Questo è il problema. È il primo problema. Poi la discussione si potrebbe fare e approfondire quanto vogliamo. Oggi non ci sono le condizioni politiche, non ci sono le condizioni sindacali, le garanzie sindacali, perché qualsiasi cambiamento possa in qualche maniera essere gestito quantomeno anche.